Yellery Yellow. C'era un tempo, un bellissimo tempo, un giovane ragazzo di 18 anni di nome Tom Tiver. Tom era una persona pigra e lavorava nella fattoria del famigerato signor vecchio McDonald. Beh, tecnicamente era un impiegato lì, ma oziava tutto il giorno e non faceva alcun lavoro ed era sempre pronto con delle scuse. Così, una domenica sera, mentre Tom attraversava il campo, sentì improvvisamente qualcuno piangere. Aiuto! Aiuto! Sono bloccato! Cos'era quello? Sono io, Yellery Yellow! Aiutami, caro amico! Ah, eccoci di nuovo! Perché non posso semplicemente andare in giro in pace? Il piagnucolio divenne più forte e ancora più forte. La pietra! La grande e grossa pietra! La pietra in cima! Sì, aspetta, sto arrivando! Tom si diresse verso la direzione del suono e presto si imbatté in una pietra dove, alla luce della luna, stava un gnomo. Tom! Tom, bravo ragazzo! Mi aiuteresti, per favore? La mia gamba è bloccata sotto questa pietra! Sì, certo, basta che la smetti di piangere! Perbacco, è fastidioso! Tom spostò con cura la pietra e presto la gamba dello gnomo fu libera. Oh, sei un angelo! Oh, sono di nuovo libero! Ok, signor gnomo, adesso vai! Oh, mi chiamo Yellery Yellow, se non hai sentito la prima volta, ma va bene. E me ne andrò. Ma prima, lascia che ti ripaghi per la tua gentile azione. Chiedimi qualsiasi cosa e la realizzerò per te. Qualsiasi? Sì, qualsiasi cosa. Hai bisogno di una bella moglie? Un sacco di oro? Una vita in cui non dovrai mai più lavorare? Ho una moglie ed è la persona più bella di tutto il mondo. Quindi grazie, ma questa volta passo. Allora posso darti un sacco di oro? Bene, sai una cosa? Hai detto qualcosa sul non dover più lavorare e mi piace il suono di quelle parole. Allora così sarà. Domani, quando andrai a lavorare, dovrai solamente chiudere gli occhi e dire Yellery, Yellery, grande Yellery! Non lo dirò. Bene, di solo Yellery, Yellery! E il tuo desiderio diventerà realtà. Ora devo andare. Ciao! E corse via e scomparve nella notte. Tom si grattò la testa, quindi scrollò le spalle e proseguì. Il giorno successivo, quando Tom raggiunse la fattoria, il signor McDonald disse: Tom, figliolo, per favore, vai in cucina e lava i piatti. Ah, sì, signore. E così Tom andò in cucina. Appena aprì la porta, trovò un sacco di piatti che dovevano essere puliti. Ne fu inorridito. Mio Dio, ci vorrà tutto il giorno per finire. All'improvviso ricordò l'incontro con Yellery Yellow della notte precedente. Vediamo se funziona. Yellery, Yellery. E non appena lo disse, l'acqua del rubinetto iniziò a scorrere. I secchi volarono verso di esso e iniziarono a riempirsi. Presto i cenci iniziarono a pulire il pavimento, mentre le spugne iniziarono a pulire gli utensili. Tom ne fu stupito. Wow, funziona davvero! Grazie, Yellery! In pochissimo tempo la cucina divenne pulita e ordinata come mai prima d'ora. Bene, dovrebbe bastare. Signor McDonald, eccomi! Tom si strofinò le mani e uscì dalla cucina con orgoglio. Andò dal signor McDonald e gli annunciò che il lavoro era finito. Finito? Così presto? Sei sicuro di non aver sognato ad occhi aperti? Beh, dia un'occhiata a lei stesso. Bene, lo farò. Il signor McDonald andò a controllare la cucina e rimase sorpreso nel vedere che era pulita come mai prima d'ora. Happy meal con nuggets e bevande. Questo posto brilla davvero. Ottimo lavoro, Tom. Indovina, sei ora pronto per diventare l'impiegato del mese. Sono fiero di te. Grazie, signore. Rob, un altro lavoratore della fattoria che era molto laborioso e devoto, pensò che ci fosse qualcosa di sospetto. Decise di tacere e di andare fino in fondo. E così la mattina dopo, quando Tom entrò in cucina, pronunciò le parole magiche. Yalleri, yalleri! E proprio come il giorno precedente, tutto quanto si pulì da solo. Tom era contento, ma inconsapevole del fatto che Rob stava osservando segretamente tutto dalla finestra. Mamma mia, Tom è uno stregone. Devo andare a informare il signor McDonald. Signor McDonald, signore, ho delle notizie per lei. E così Rob gli disse tutto. Menù combo con insalata al gelato. Quindi è così che lo sta facendo? Uno stregone non è il benvenuto qui. Andiamo. Salve, signor mago. So cosa stai facendo. Mago? Io posso spiegare. È una storia strana. L'altra sera, quando io... Certo, Tom. Non abbiamo bisogno di streghe e maghi nella mia fattoria. Ho bisogno di persone laboriose, non di gente pigra che usa la magia per fare il proprio lavoro. Ma cosa c'è di sbagliato in un po' di magia? Sto facendo il mio lavoro. Non è questo il punto? Fare il mio lavoro? No, il punto è che non è giusto. Rob e gli altri lavorano duramente per far funzionare la fattoria e mantenere le loro famiglie. Tu, invece, non fai mai alcun lavoro e sei pieno di scuse. E ora usi pure la magia? Ma... È abbastanza. I tuoi servizi non sono più richiesti. E come farò con la mia famiglia? Come li nutrirò? Sei uno stregone. Immagino che troverai facilmente un altro lavoro. Bene, sa una cosa? Ha ragione. Non ho bisogno di questo sciocco lavoro. Ne troverò uno migliore. E con ciò, Tom prese la sua borsa e uscì. Nei giorni seguenti, Tom fece del suo meglio per trovarsi un lavoro. Ma la notizia che era uno stregone si era diffusa così in fretta che nessuno era disposto a dargli un lavoro. Abbattuto, una notte Tom andò al campo e chiamò Yalleri Yellow. Yalleri Yellow, dove sei, amico? All'improvviso si rese conto che Yalleri era in piedi dietro di lui. Tom fu un po' sorpreso di vederlo con la barba. Non ti ricordavo con la barba. Io, vedi, ero... Non importa. Ascolta, ho bisogno del tuo aiuto. Aiuto? Ti ho aiutato l'ultima volta. Non ti basta? Bastarmi? Sono stato licenziato dalla fattoria perché pensavano che fossi uno stregone. E ora l'intera città pensa che io sono stregone e nessuno mi dà lavoro. Cosa posso fare? Aiutami, Yalleri. Cosa vuoi che faccia? Bene, annulla tutto questo. Voglio la mia vita indietro. Lavorerò sodo e guadagnerò il mio pane e burro proprio come tutti. Voglio essere conosciuto come Tom Trevor, il lavoratore del vecchio McDonald's, non come uno stregone. Per favore, Yalleri. Per favore. Sei sicuro? Perché non posso annullare di nuovo quanto ho annullato. Sì, sono sicuro. D'accordo, come vuoi. Yalleri schioccò le dita e sorrise. È fatta! Cosa? Che cosa è fatto? Con effetto immediato, nessuno ricorderà ciò che hai fatto in cucina. La gente dimenticherà che sei uno stregone. Proprio così? Già! E il signor McDonald? Si dimenticherà di avermi licenziato? Già! Oh, devo esserne sicuro, sai? Grazie! Grazie, Yalleri! Devo andare, ciao! Dove stai andando? Dal signor McDonald, a riprendermi il mio lavoro. Ma devi fidarti di me! Mi fido, ma comunque, ciao, amico mio! Big Mac con formaggio extra e patatine fritte! Tom raggiunse presto la fattoria del signor McDonald e bussò alla sua porta. La porta si aprì lentamente e il signor McDonald apparve. Sembrava un po' nervoso. Sì? Tom, che cosa ti porta qui a quest'ora? Signore, prometto di lavorare sodo e dare il massimo. Prometto di non essere mai più un pigrone. Per favore, mi ridia il mio lavoro. Ridarti il tuo lavoro? Di cosa stai parlando? Ah, va bene, quindi ha funzionato. Beh, non importa, ho fatto un sogno folle. Ci vediamo domani, ciao. Ciao, ragazzo. E così, dal giorno successivo, Tom lavorò sodo proprio come tutti gli altri. Si era reso conto che non si doveva dipendere da nessuno per svolgere i propri compiti. E per quanto riguarda il signor McDonald, era felice di aver insegnato a Tom la lezione che aveva bisogno di imparare.